America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ci siamo arrivati oggi, lunedì 28 dicembre, è l'ultima copertina di questo 2015. Devo dire, mi fa una certa impressione. Siamo arrivati ormai formalmente alla fine dell'anno, comincia l'anno nuovo, comincerà l'anno nuovo fra una settimana, anzi fra meno di una settimana, perché il primo di gennaio sarà già venerdì, saremo nel 2016, e dunque credo che sia arrivato il momento, ed è questa la copertina di questa settimana, di prepararci all'anno nuovo, alle novità. Diciamo, è arrivato il momento di fare un po' un bilancio di questo 2015, che è stato un anno molto pesante, molto difficile sul piano delle tensioni razziali, sul piano degli attentati, della grossa escalation che abbiamo visto da parte dell'ISIS, e su una serie di sfide che ovviamente restano aperte guardando al 2016. E dunque nei prossimi giorni cercherò di affrontare un po' di queste tematiche, perché, come dire, siamo in una situazione davvero caotica, in una situazione confusa. Gli equilibri internazionali continuano a cambiare, soprattutto in Medio Oriente tutto sta cambiando. Abbiamo avuto l'emergenza degli immigrati, o dei rifugiati dovremmo dire, che è stata un'emergenza durissima, un'emergenza che poi riprenderà sicuramente ancora più forte l'anno prossimo. Siamo nel mezzo delle presidenziali americane, o meglio il 2016 sarà il vero anno delle presidenziali, perché cominceranno anche le primarie, cominceranno i caucus. Cercherò di tenervi informati su quello, di andare un po' in giro per l'America, di raccontarvi anche l'America che guarda alle elezioni, l'ultimo anno, il 2016, di Barack Obama, e dunque ci sono delle sfide che lui deve cercare di raccogliere e di chiudere con successo entro la fine dell'anno. Ci sarà sempre più anche l'idea di quello che è il bilancio della sua amministrazione. Hi everybody, it's the most wonderful time of the year, not just for spreading holiday cheer, but also for list makers. You've got wish lists, Santa's lists, and of course a blizzard of year in review lists. Ecco, avete sentito qui proprio il presidente americano Barack Obama nell'ultima conferenza stampa che ha rilasciato prima di Natale, e promette di andare a fondo nella battaglia contro l'ISIS, e in effetti l'offensiva americana, con l'appoggio di truppe di terra irachene, con l'appoggio di curdi e con l'appoggio di altre forze, di altre milizie locali, va avanti. Però legato a, diciamo, alle promesse e al punto che il presidente ha voluto fare sulla nazione, vorrei invece cercare di portarvi, come dire, l'esempio, il riferimento di una presa di posizione esterna, e cioè di uno studio dell'Egerton Prosperity Index, cioè l'indice di prosperità dei paesi, che è pubblicato dall'Egerton Institute e vuole misurare le condizioni di 142 paesi. Anzi, vorrei darvi una descrizione ancora più precisa di questo indice, perché si basa su 89 variabili che sono poi raggruppate in 8 sottoindici: imprenditoria, governance, istruzione, salute, economia, sicurezza e libertà sociale. Ecco, gli Stati Uniti dove sono? Sono all'undicesimo posto, e dunque, diciamo, non sono in testa, non sono il paese migliore dove oggi si possa vivere. Ecco, chi sono gli altri 10 che si trovano in una posizione migliore degli Stati Uniti, dove in teoria sarebbe meglio vivere rispetto agli Stati Uniti? Allora, al primo posto c'è la Norvegia, poi subito dopo abbiamo la Svizzera, poi la Danimarca, poi la Nuova Zelanda, poi la Svezia, poi il Canada, l'Australia, l'Olanda, la Finlandia e l'Irlanda. Ecco, sono soprattutto paesi europei o paesi di estrazione europea dominati da una matrice anglosassone, perché questa poi alla fine è la cosa che secondo me è molto molto interessante. E noi dove siamo? L'Italia dov'è? Beh, siamo al 37esimo posto. Siamo al 37esimo posto per il secondo anno consecutivo. Però abbiamo dei punti di forza. Per esempio, per la sanità il nostro paese sarebbe invece all'undicesimo posto, considerando soltanto una delle altre sottocategorie. Invece non stiamo bene per ciò che riguarda la libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di opinione e così via, così via. E non stiamo bene per il trattamento degli immigrati, cioè c'è una forte discriminazione nei confronti degli immigrati. As a nation, we face big challenges, but in the spirit of 2015 retiree David Letterman, here, in no particular order, are my top 10 things that happened in 2015 that should make every American optimistic about 2016. Number 10, the economy. Ecco, avete sentito Barack Obama, le 10 ragioni che secondo lui consentono agli Stati Uniti di guardare con ottimismo al 2016. Come vi ho detto, nei prossimi giorni poi esploreremo nel dettaglio alcune delle tematiche importanti del 2016, sia in materia di politica internazionale che in materia di politica interna, sia per ciò che riguarda il cinema, un po' come dire un bilancio di quelli che sono stati i film migliori di questo 2015 e quali di questi film potranno avere delle buone prospettive guardando nel 2016 ai premi Oscar. Ma partiamo dalla graduatoria di Barack Obama. Intanto l'economia. L'economia americana ha creato negli ultimi 12 mesi 2,5 milioni di posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è stabile al 5% e dunque, secondo Obama, per l'economia potremmo essere ottimisti, le cose andranno bene come stanno andando bene adesso. Copertura sanitaria. Il suo piano ha funzionato, oltre il 90% degli americani oggi ha una copertura sanitaria, l'Obamacare è una pietra miliare nel progresso verso i diritti dei cittadini negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, meno del 10% dei cittadini non ha una copertura sanitaria. Questo per dire che cosa? Che comunque non siamo ancora arrivati al 100% e dunque ci sono ancora dei margini per migliorare. Number 8. America's global leadership on climate change. C'è una leadership americana, dice Barack Obama, nel cambiamento climatico. Gli accordi di Parigi sono stati fondamentali per cercare di contenere il riscaldamento delle temperature nel mondo. Oltre 200 paesi hanno partecipato e hanno raggiunto un'intesa, devo dire, è stata una svolta storica questa per il 2005, per il futuro degli equilibri ambientali. Politica estera, ci sono stati dei risultati importanti, perché su Cuba, per esempio, non dimentichiamolo, sono state riaperte le relazioni con Cuba. Il 2015, da questo punto di vista, è stato un anno storico, è stata riaperta l'ambasciata americana ad Havana, quella della Havana a Washington, gli americani possono andare come turisti a Cuba e c'è una normalità per i cittadini cubano-americani. Number 6. Preventing the spread of nuclear weapons. Sempre in politica estera, la svolta importante è l'accordo con l'Iran, un accordo controverso, ma un accordo che dovrebbe prevenire la proliferazione nucleare, soprattutto in Medio Oriente, e prevenire naturalmente il rischio di una guerra. È un accordo, come vi dicevo, questo controverso, perché se da una parte evita il rischio di una proliferazione nucleare e di una produzione di arsenale nucleare in Iran, d'altra parte ha creato degli sconquassi diplomatici e politici nella regione, cosa che ci porta all'altro punto importante menzionato da Barack Obama, cioè la coalizione di 65 paesi che stanno combattendo contro l'ISIS. Anche in questo caso c'è una leadership americana, però purtroppo dobbiamo dirlo, la situazione nella regione certamente avrebbe potuto essere molto meglio di quello che è adesso se fossero state fatte, come dire, delle scelte un po' più dure prima. Number 4. A 21st century trade deal that makes sure our businesses can sell goods made in America across the Asia Pacific. Sul fronte economico, storico, l'accordo commerciale, il TPP, Trans-Pacific Partnership, 12 paesi dell'area del Pacifico hanno aderito per creare un mercato unico. Barack Obama dice che questo rende gli Stati Uniti liberi di dettare regole commerciali in quell'area. C'è molta polemica anche dietro questo accordo, non si capisce se e quando la Cina potrà aderire, non entrerò qui nel dettaglio, ma ci sono sicuramente mille rivoli, e uno dei rivoli importanti è che questo accordo eserciterà pressioni perché ci sia nel 2016 un accordo invece per l'area dell'Atlantico, il cosiddetto TTIP. Number 3. A pair of Christmas miracles in Washington. This week Congress passed a bipartisan budget that invests in middle class priorities. Barack Obama menziona l'accordo di bilancio bipartisan, la legge finanziaria che ha evitato, attraverso un'appropriazione di 1.150 miliardi, ha evitato la chiusura del governo americano, e quindi ci sarà tempo fino al settembre prossimo, e un bilancio che investe nelle priorità della classe media, ma è anche un bilancio, attenzione, che ha sbloccato due cose molto importanti, e cioè da una parte parte ha consentito che gli Stati Uniti procedano con il rifinanziamento delle quote dell'aumento di capitale del Fondo Monetario Internazionale, e questa era una decisione che era stata presa dal G20 in Corea ben 5 anni fa. Gli Stati Uniti avevano bloccato questo rifinanziamento, attenzione, non Barack Obama ma il Parlamento Repubblicano, quindi questo ostacolo è stato superato, e come è stato superato un altro ostacolo che bloccava, impediva le vendite di petrolio estratto negli Stati Uniti all'estero. Era una vecchia legge degli anni 70, quando ci fu la crisi petrolifera, gli Stati Uniti decisero mai più vendere all'estero. Matrimoni gay, Love One. I matrimoni gay sono legali nei 50 stati, lo ha deciso la Corte Suprema americana, e dunque non ci potranno essere delle deroghe. E questa è una battaglia che Barack Obama ha condotto fin dall'inizio della sua amministrazione. Vi ho raccontato nei giorni scorsi di altre battaglie sul fronte dei gay lesbian movement, ma sicuramente questa è stata una svolta storica per il 2015. I matrimoni gay sono legali in tutti e 50 stati. Infine, un messaggio simbolico, e cioè Barack Obama che dice: quando siamo uniti come americani non c'è nulla che non possiamo fare. Per questo il 2015 è stato un anno molto buono, e per questo sono fiducioso che lo sarà anche il prossimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su mario24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che parliamo del futuro, di quello che è successo nel 2015, delle sfide che ci attendono, credo che tutto sommato, come dice Barack Obama, possiamo guardare al futuro, con un ottimismo costruttivo. Certo, dovremo superare ostacoli, dovremo fare delle battaglie, ma d'altra parte quelle ci sono sempre anche nella nostra vita quotidiana del giorno per giorno, e dunque pensando al futuro e pensando al mondo che nonostante tutto resta bellissimo, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.